AVS Media Demo. AVS Media Demo. Sono i racconti di cui è popolata la vita delle tecnologie, storicamente parlando, nella logica della loro introduzione. AVS Media Demo. La tecnologia compare all'orizzonte, di solito è accompagnata da un racconto di emancipazione. Questi racconti di emancipazione possono essere prodotti o da coloro stessi. AVS Media Demo. Oppure perché i conti possono essere prodotti dalla fantascienza, dalla letteratura, quanti bellissimi. AVS Media Demo. Sono stati prodotti attorno al virtuale del trasporto, piuttosto che alla possibilità della comunicazione a distanza, che poi nel giro di pochi o tanti anni si sono trasformati in realtà. AVS Media Demo. Le fattori sono spessissimi prodotti della scienza. Per tutta una serie di ragioni che si potrebbero approcciare anche dal punto di vista epistemologico. Potrebbe tornare lì qui, pensiamo. AVS Media Demo. Secondo la prospettiva, non molto dura, un uomo a guida, anzi, debole, però ha trovato, come dire, seguito e rispondenza. AVS Media Demo. Che questi racconti di emancipazione hanno, e è un compito triplice, e il triplice compito lo si costruisce mettendo in sequenza le tre azioni. Prima ragione. AVS Media Demo. Perché è il momento in cui viene collocata in una classe sociale nuova, e se io non la introduco attraverso i racconti che ne favoriscono la distribuzione. AVS Media Demo. Dopo averla introdotta, lavora solo per determinare il significato, i racconti di emancipazione danno proprio il significato alla tecnologia di quello che normalmente non ha. AVS Media Demo. Per il significato si innesca il loop che comincia a circolare la tecnologia. AVS Media Demo. Attraverso la notizia che cosa di poco in poco lo scambio di esperienza si fa circolare la sua. E qui ragioniamo preparando questo intervento su quale sia il racconto della vita. AVS Media Demo. Il racconto della vita abbiamo racconto che si organizza attorno a tre temi che sono la scuola, il cambiamento, l'innovazione della vita. È un bel racconto di emancipazione. AVS Media Demo. Racconto di emancipazione bello e funzionale nelle misure in cui ci sono altri racconti non di emancipazione costruiti sulla scuola, sul cambiamento, sull'innovazione della vita, che sembra invece. AVS Media Demo. Il racconto di emancipazione dice la scuola che è vecchia, desueta, e inerte rispetto al cambiamento, grazie alla vita, cambia, sì. AVS Media Demo. A questo punto mi faccio alcune domande su questo racconto di emancipazione. AVS Media Demo. Proprio dalla innovazione della didattica, al ruolo dell'innovazione della didattica. Mi chiedo per esempio se, e non faccio altro che AVS Media Demo. Per le persone di Alessandro, è una questione di strumenti, è una questione di strumenti, di innovazione della realtà. AVS Media Demo. Per gli informatici tecnologici. È una questione di ambienti, sempre la classe che deve cambiare, deve trasformarsi. AVS Media Demo. Un'organizzazione. È una questione di strutturazione del lavoro scolastico, cioè di struttura delle pratiche consolidate delle pratiche. AVS Media Demo. Rendere il diritto formale, l'educazione formale, non fate del diritto, se si diversano, si motivano, e se si motivano, sono contentissimi e apprendono. AVS Media Demo. Sono forse sono anche me, con gli amici, in un gruppo di lavoro, con gli insegnanti, a capo ci vedete, che vedrete oggi pomeriggio, voi parteciperate. AVS Media Demo. Danno vita a questo convegno scambio delle esperienze che si chiama Comianus Terranus. Quindi mi avevano invitato per parlare della classe 2.0. Io sostanzialmente mi sentivo. AVS Media Demo. Che sono le domande che mi pongo nel momento in cui penso alla didattica, scusate, alla linea di prospettiva. Delle domande AVS Media Demo. Organizzazione dell'animazione, ma io lavoro per un momento in cui leggo con PowerPoint anche questa cosa. Allora, per AVS Media Demo. Posso fare, se mi passate il termine, lezione 1.0 con la BIM? Cioè, posso cambiare tutto perché non cambi niente? Sì. AVS Media Demo. E ragiono su 5 delle moltissime caratteristiche che la lezione con la lima potrebbe mantenere rispetto alla lezione senza lima. AVS Media Demo. Con la lima, sì. E l'impostazione qual è? Della pratica maestra di quello che tu sei. La pubblica qualità potrebbe essere la rete. AVS Media Demo. L'istituzione di un sistema di lavoro che è basato sull'esecuzione dei compiti. Lo pronto? No, potrei continuare a ragionare su un sistema di lavoro basato sull'esecuzione dei compiti. AVS Media Demo. La prestazione individuale versus la collaborazione. Riesco a portarla, ma posso continuare a ragionare sulla prestazione individuale. Vieni alla lima e ti faccio fare questo. AVS Media Demo. E dopo gli oggetti che si tira dietro. La traccia turistica da me occupa dell'insegnante che nel momento in cui si valorizza per giustino libera AVS Media Demo e comincia a curare i suoi oggetti di mano perché devono essere bellissimi e così alla fine dimostriamo ai genitori. Cioè, mi sembra che anche il regolamento di oggetti come nella scuola della AVS Media Demo cosa ridurre dove passava un anno a fare la presentazione continuare degli oggetti, alla fine rimaniamo da poco sotto un oggetto, in quel anno che io avevo fatto la prima, in fatto, avevamo messo insieme noi AVS Media Demo. Non dell'esame, ma della presentazione per me l'ho presentato. Da lì finivano nella didattica del dirigente, cioè un cassetto nella direzione scolastica. Allora, quello che voglio dire è che può non cambiare. AVS Media Demo. Che è cambiato tutto. Allora, questa decisione è di provare non a risolvere il problema, ma a suggerire piste di lavoro perché è cambiato tutto. AVS Media Demo. Cioè per dare significato ad un'operazione come quella di introduzione delle lingue nella classe. I protagonisti, come vedete, sono la vecchia lavagna. AVS Media Demo. La lavagna appunto, che va progressivamente in pensione, la lima, e qui una libera concorrenza, ma dovete perdonare che quello che trovato mi era iniziale, contra questa. AVS Media Demo. Perché secondo me l'altro protagonista che non ci siamo mai abbastanza della trasformazione della classe, classe digitale è proprio compiuta da basso costo e ad alta con l'elettricità. AVS Media Demo. L'elemento fondamentale del sistema di lavoro che fa termo nella vita. E allora mi sono chiesto, parte persone che che cosa potrebbe voler dire. Io vedo AVS Media Demo. Che sono un po' la cornice concettuale dell'operazione. E due strategie. Le due premesse rispondono ad altrettanti freni. E secondo me sono AVS Media Demo. È un percettivo. Anche qui nella strada didattica ci sono stati momenti in cui i due brand sono stati frequentati con vetero, tecnologie. Mi sembra che però sia un po' di tempo che non ci si frequenta più. AVS Media Demo. Il parere consente di tornare a frequentarli. Sono due dei brand, il brand giusto e il brand percettivo. Le due strategie prendono corpo nelle due idee della classe lavoratoria. AVS Media Demo. Perché qui niente di nuovo dal punto di vista della ricerca didattica, ma si tratta di andare a recuperare idee validissime che appartengono al passato recente e meno recente questa storia, e rilanciando le idee. AVS Media Demo. Sono messo ad immaginare il percorso velocemente lì, gli elementi di una drammaturgia della vita. Che cosa c'è che mi spinge in questa direzione? AVS Media Demo. C'è uno sfondo che si popola di scenari. C'è un testo che assomiglia moltissimo a una scena. AVS Media Demo. Perché assomiglia moltissimo ad una scrittura di scena, come quella che si faceva nel cosiddetto nuovo teatro dagli anni 60 e i primi anni 80. AVS Media Demo. Che scrive quegli altri che mettono in scena per ripiegarsi a favore di una scrittura che nasceva sulla scena, o se non direttamente sulla scena, immediatamente nell'elettropalco. AVS Media Demo. Con tutto quello che viene messo, cioè quindi il primo piano, ad esempio, dei treni, la performance diventa molto più importante del treni che porta alla performance. AVS Media Demo. L'autore, gli attori, che sono autori, perché non è che ci sia proprio questa grandissima differenza tra chi è autore e chi è attore. AVS Media Demo. All'estero si può ragionare sulla lezione con la LIM, qui si dovrebbe mettere in momento un limite a indicare nella traccia del lavoro, si potrebbe ragionare sulla lezione con la LIM. AVS Media Demo. La dimensione narrativa, da una parte, si sta parlando da rendere di vista la storia. Per un tipo da però c'è un libro di Maria Santi che è un programma per tutto sul digital. AVS Media Demo. Questo tipo di due ottimi modelli di università di Padova è una pratica molto diffusa, assolutamente interessante, non da lei realtà. A misura di è la presa che viene in primo piano, perché gli scenari non sono dei contatti. AVS Media Demo. Anche se la visita di Padova, ma sono la visita di Padova lì, si può. E di conseguenza la dimensione performance, la logica della performance facendo tutta la vita di AVS Media Demo. Performativa come oggetto, cioè tra la performance c'è una molto forte che spinge a rendere luogo di snodo di corso di pratiche performative. AVS Media Demo. L'altro scenario, cioè quello che consentire di lavorare nella economia della vita. Queste cose stanno nell'idea progettuale. AVS Media Demo. Cioè, gli amici di Ferrara sono compagni di strada. L'economia della vita. Anche qui due elementi mi sembrano particolarmente interessanti. AVS Media Demo. Che alla magia, AVS Media Demo. Così super tecnologico, con l'esperienza del bambino, in tal modo di cui la parlare. E dall'altra parte c'è tutto il discorso relativo alla visualizzazione e alla manipolazione. AVS Media Demo. Certo, che dice tutto il discorso relativo all'espressione della mente, la scena della mente che si proietta fuori sullo schermo e consente di manipolare concetti come fossero oggetti. AVS Media Demo. E che è più lui, immagino. Dall'altra parte la multimedialità. La multimedialità che a mio parere è sollecitata proprio nella prospettiva della modificazione. AVS Media Demo. Gartner, direttamente dice, ma Gartner in primo luogo. Qui discorso interessante. Quindi la conseguenza dell'analisi dell'intelligenza computer è proprio la possibilità AVS Media Demo di accesso alla conoscenza e quindi di intercettare le mix differenti di abilità e di cognitivi per bambino. Vado a spiegare AVS Media Demo questioni e chiudo. Dicevamo, allora, per la tecnologia e l'economia della vita, e due immagini, la classe laboratorio della comunità di apprendimento. Il modello AVS Media Demo. Dice una didattica, quella con la lingua, centrata sul padre. Quali sono i metodi di questa didattica centrata sul padre? Sono i loro due. AVS Media Demo. E quali sono le pratiche di questa didattica centrata sul fare? Il file share e non soltanto il file share e il video. Mi pare, cioè, AVS Media Demo. Mi pare che la linea è un bello spunto, un bel suggerimento per correre. AVS Media Demo. La classe laboratorio, cioè potrei utilizzare in prospettiva 1.0, se voglio fare le cose bene, la luce della prospettiva della classe laboratorio. E l'altra dimensione, evocata dall'immagine della prospettiva AVS Media Demo. Classe centrata sul collaborare. Tutti i discorsi di Jonassen come modello che sta a monte della didattica centrata sul AVS Media Demo. Dalla didattica metacognitiva al problem solving, le pratiche, la lezione dialogata, la costruzione condivisa della conoscenza. Capite che queste quattro cose sono la tecnologia AVS Media Demo. E quindi da riferimento sono più o meno che un primo syllabus di contenuti da approfondire, potrebbero essere la mappa di un corso metodologico per insegnare AVS Media Demo. Grazie per la lingua. Sulla base di questa riconcettualizzazione, allora diventa possibile venire spostarsi dalla logica di un punto vero. AVS Media Demo. Tutti gli usi estremamente e interessante da lì. Da lì come sistema di rappresentazione, da lì come spazio di struttura collaborativa, da lì AVS Media Demo. Nel senso dell'ausilio sia nel senso del supporto, che ha già fatto un piccolo intervento con delle reti di scuola che lavorano sul rapporto tra l'immagine didattica spesata, ma supporto della didattica. AVS Media Demo. Con la abilità diversa. La LIN come amplificatore degli apprendimenti, il software dedicato va in questa direzione, come spazio di socialità, come AVS Media Demo. Sarebbe interessantissimo la LIN come spazio per la didattica interculturale basata sull'utilizzazione dei contest. Bambini diversi che scrivono, cose diverse che compongono, altri fatti diversi condividendo lo stesso. AVS Media Demo. Una attività di facilitazione riflessiva dell'insegnamento. E alla fine la LIN come ambiente di comunità. comunicazione, come è stato detto, quindi la videoconferenza e AVS Media Demo. Io non mi proponevo di risolvere i problemi, mi proponevo di concettualizzare una modalità problematica che va assolutamente superata. AVS Media Demo. E tracciare un roadmap possibile che i sistemi di istruzione potrebbero provare a seguire, perché l'introduzione del libro in scuola non sia soltanto una AVS Media Demo. Istruzione demagogica della capacità di un paese di essere al passo dei tempi, ma si traduca effettivamente in uno strumento efficace per loro. Grazie.